Sezione ventesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventesimo. Quando colui che tutto il mondo alluma dell'emisperio nostro si discende e il giorno d'ogni parte si consuma, lo ciel, che sol di lui prima s'accende, subitamente si rifà parvente per molte luci in che una risplende. E quest'atto del ciel mi venne a mente, come il segno del mondo e dei suoi duci nel benedetto rostro fu tacente. Però che tutte quelle vive luci, vie più lucendo, cominciaron canti da mia memoria labili e caduci. O dolce amor, che di riso t'ammanti, quanto parevi ardente in quei favilli che avvian spirito sol di pensier santi. Poscia che i cari e lucidi lapilli, ond'io vidi ingemmato il sesto lume, pose a silenzio agli angelici squilli, udir mi parve un mormorar di fiume che scende chiaro giù di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume. E come suono al collo della cetra prende sua forma, e sì come al pertugio della sampogna vento che penetra, così, rimosso ad aspettare indugio, quel mormorar per l'aguglia salisse su per lo collo come fosse bugio. Fecesi voce quivi, e quindi uscissi per lo suo becco, in forma di parole, quali aspettava il cuore, ov'io le scrissi. La parte in me che vede pate il sole nell'aguglie mortali, incominciommi, or fisamente riguardar si vuole, perché de fuochi, ond'io figura fommi, quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla, di tutti i loro gradi son li sommi. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merto del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fan cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue in la circonferenza di chi ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza. Ora conosce che il giudicio eterno non si trasmuta perché degno preco fa castino laggiù dell'odierno. L'altro che segue con le leggi e meco sotto buona intenzion che fe mal frutto per cedere al pastor si fece greco. Ora conosce come il mal dedutto dal suo bene operar non gli è nocivo avvegna che sia al mondo indi distrutto. E quel che vedi nell'arco declivo Guglielmo fu cui quella terra plora che piange Carlo e Federigo vivo. Ora conosce come s'innamora lo ciel del giusto rege e dal sembiante del suo fulgore il fa vedere ancora. Chi crederebbe giù nel mondo errante che Rifeo Troiano in questo tondo fosse la quinta delle luci sante? Ora conosce assai di quel che il mondo veder non può della divina grazia, benché sua vista non discerna al fondo. Qual lodoletta che in aere si spazia primo cantando e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia, tal mi sembiò l'immago dell'amprenta dell'eterno piacere, al cui disio ciascuna cosa qual ell'è diventa. Ed avvegna ch'io fossi al dubbiar mio lì quasi vetro allo color che il veste, tempo aspettar tacendo non patio. ma della bocca. Che cose son queste? Mi pinse con la forza del suo peso, perch'io di corruscar vidi gran feste. Poi appresso, con l'occhio più acceso, lo benedetto segno mi rispose, per non tenermi in ammirar sospeso. Io veggio che tu credi queste cose, perch'io le dico, ma non vedi come, sicché, se son credute, sono ascose. Fai come quei che la cosa per nome apprende ben, ma la sua quiditate veder non puote, s'altri non la prome. Regnum celorum violentia pate, da caldo amore e da viva speranza, che vince la divina volontate, non a guisa che l'uomo all'uomo sobranza, ma vince lei perché vuole esser vinta, e vinta vince con la sua beninanza. La prima vita del ciglio e la quinta ti fa maravigliar, perché ne vedi la region degli angeli dipinta. De corpi suoi non uscir, come credi, gentili, ma cristiani in ferma fede, quel de passuri e quel de passi piedi, che l'una dall'onferno u non si riede giammai a buon voler, tornò all'ossa, e ciò di viva speme fu mercede, di viva speme che mise sua possa nei prieghi fatti a Dio per suscitarla, sì che potesse sua voglia esser mossa. L'anima gloriosa onde si parla, tornata nella carne, in che fu poco, credette in lui che poteva aiutarla, e, credendo, s'accese in tanto fuoco di vero amor, ch'alla morte seconda fu degna di venire a questo giuoco. L'altra, per grazia che da sì profonda fontana stilla, che mai creatura non pinse l'occhio insino alla prim'onda, tutto suo amor laggiù pose addrittura, perché di grazia in grazia Dio gli aperse l'occhio alla nostra redenzion futura. Onde credette in quella, e non sofferse da indi il puzzo più del paganesmo, e riprenea nelle genti perverse. Quelle tre donne gli fur per battesmo, che tu vedesti dalla destra ruota, dinanzi al battezzar più d'un millesmo. O predestinazion, quanto rimota è la radice tua da quegli aspetti che la prima cagion non veggio tota. E voi, mortali, tenetevi stretti a giudicar che noi, che Dio vedemo, non conosciamo ancor tutti gli eletti. Ed enne dolce così fatto scemo, perché il ben nostro in questo ben s'affina che quel che vuole Dio e noi volemo. Così, da quella immagine divina, per farmi chiara la mia corta vista, datami fu soave medicina. E, come buon cantor, buon citarista, fa seguitar lo guizzo della corda, in che più di piacer lo canto acquista, sì, mentre che parlò, mi si ricorda ch'io vidi le due luci benedette, pur come batter d'occhi si concorda, con le parole muover le fiammette. Fine del canto 20.